bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata 183 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana parleremo di neuroscienze, di neuroni specchio, ma soprattutto di empatia. Come sanno gli ascoltatori del Fotone, questa trasmissione si è occupata più volte di questo argomento, dell'empatia, ma soprattutto si è occupata di neuroni specchio. E allora sono andato a recuperare un pezzo dal libro di Rizzolatti, So quel che fai, scritto con Corrado Sirigaglia. In altre parole, l'osservazione di volti altrui che esprimono un'emozione determinerebbe un'attivazione dei neuroni specchio della corteccia premotoria. La risultante attivazione delle aree sensoriali sarebbe alla base della comprensione delle reazioni emotive degli altri. Ecco, questo in sintesi il concetto di empatia. Empatia che cosa significa? Empatia fondamentalmente significa la comprensione dell'emozione altrui, ma soprattutto la comprensione dei movimenti altrui. È quel meccanismo che ha insegnato agli uomini ad evolversi. Questo meccanismo è stato studiato molto bene dall'equipe di Rizzolatti con la scoperta dei neuroni specchio fatta circa 20 anni fa. Questi studi però hanno avuto un approccio, diremo, neuroscientifico. Pochi invece sono stati gli studi sempre su questo campo dal punto di vista psicologico. E allora ne parleremo proprio quest'oggi parlando di un paper pubblicato qualche giorno fa su PLOS ONE insieme al dottor Daniele Marzoli, docente a contratto dell'Università di Chieti. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Daniele, con te parleremo di questo paper intitolato The Relation Between Self-Reported Empathy and Motor Identification with Imagined Agents, pubblicato appunto su PLOS ONE qualche giorno fa, ma soprattutto che cerca di analizzare il concetto dell'empatia dal punto di vista psicologico. E allora Daniele, ti lascio la parola per le 100 parole iniziali con le quali vorrei che introducessi un pochino il contenuto di questo paper, che poi andremo a sviluppare meglio nella parte centrale della nostra trasmissione. A te la parola. In breve, saprete tutti che tra le definizioni di empatia c'è quella di capacità di immedesimarsi nell'altro. La nostra ricerca sembra dimostrare che le persone più empatiche tendono ad immedesimarsi con le altre persone, anche semplicemente quando immaginano un'azione. Precisamente questo effetto viene riscontrato soltanto nelle femmine. E per questo, come spiegheremo più tardi, ci sono delle interpretazioni che sono in linea con la letteratura. Daniele, ti ringrazio per la sintesi. A questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale. Poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di spiegare effettivamente cos'è dal punto di vista scientifico, tra virgolette, l'empatia. Accenneremo un pochino al concetto dei neuroni specchio, una scoperta assolutamente rivoluzionaria per il campo delle neuroscienze. E poi nella seconda parte della trasmissione parleremo espressamente di questo paper, quindi entreremo più nell'argomento della settimana. A dopo. Al mio segnale scatenate l'inferno. Oh well, I hate to seem so tragically dizzy. Magnetized degli Effervescent. E questo è il pezzo musicale che ci sta accompagnando come prima canzone all'interno di questa 183esima puntata di Caccia Fotone, attraverso la quale stiamo cercando di parlare di empatia. Ne stiamo parlando col dottor Daniele Marzoli, docente a contratto presso l'Università di Chieti, ma soprattutto primo autore di un paper scritto insieme al dottor Rocco Palumbo, ad Alberto Di Domenico, a Barbara Penolazzi, a Patrizia Garganese e a Luca Tommasi. Ed è un paper che cerca di spiegare, da un approccio totalmente diverso da quelli passati, cioè un approccio psicologico e non neuroscientifico, il concetto di empatia. E allora Daniele, all'inizio abbiamo cercato di introdurre questo paper con le 100 parole iniziali, le classiche 100 parole di Caccia Fotone. Stiamo cominciando con la trasmissione, quindi dobbiamo cercare di dare i concetti base in questa prima parte. Prima domanda che ti farò quindi è: che cosa definisce la scienza per empatia? Diciamo, nella visione comune si intende semplicemente la capacità di immedesimarsi negli altri, quindi di capire cosa gli altri stanno provando. L'empatia può essere vista come, cioè l'empatia ha più componenti, quindi ci sono delle componenti di tipo prettamente emotivo, ma ci sono anche delle componenti di tipo cognitivo. Quindi per quanto riguarda l'empatia emotiva, si tratterebbe appunto di capire, di comprendere al volo, di immedesimarsi nelle emozioni che una terza persona sta provando. Per quanto riguarda le componenti cognitive, ci si riferisce di più a quella che viene definita spesso come teoria della mente, quindi capire ciò che l'altro sta pensando. Daniele, tu fai riferimento alla teoria della mente, che è poi quella teoria onnicomprensiva che dovrebbe spiegare i cosiddetti processi funzionali del cervello. Però effettivamente la proprietà empatica, l'empatia, è propria solo degli esseri umani o anche delle scimmie, quindi di tutti i primati? No, probabilmente non è, almeno dal punto di vista scientifico, l'empatia non dovrebbe essere qualcosa che esiste solo negli uomini, ma dovrebbe essere una modalità di comunicazione che va oltre la nostra specie. Quindi anche per quanto riguarda per esempio le scimmie, l'empatia dovrebbe servire come mezzo, potrebbe essere un mezzo di comunicazione tra un animale e l'altro, quindi è qualcosa che negli animali sociali potrebbe facilitare la comunicazione. La scoperta dei cosiddetti neuroni mirror nella scimmia sembra aver fornito una base appunto per questo comportamento. Questi neuroni sono stati scoperti una ventina di anni fa dall'equipe guidata dal professor Giacomo Rizzolatti. Hanno dimostrato che alcuni neuroni della scimmia si attivano non solo quando appunto la scimmia vede, cioè compie un'azione, ma anche quando esegue un'azione. Questi neuroni sono stati denominati neuroni specchio e appunto sembrano essere una delle basi, potrebbero essere la base del comportamento comunicativo appunto delle scimmie. Ovviamente per quanto riguarda la scimmia non si può parlare di immaginazione, perché non possiamo chiedere ad una scimmia appunto di immaginare qualcuno, una terza persona o una terza scimmia, diciamo. Questi neuroni scaricano, quindi mandano dei segnali, sia quando la scimmia sta semplicemente eseguendo un'azione, per esempio afferrare una mela, sia quando la scimmia vede un'altra scimmia che afferra la mela, oppure anche lo sperimentatore stesso che afferra la mela. Questo è stato ipotizzato, che questi neuroni appunto servano per creare un collegamento tra ciò che si vede e ciò che si esegue, quindi potrebbero essere la base dell'imitazione. Potrebbero servire appunto anche per comprendere le emozioni degli altri, perché un buon modo per comprendere ciò che l'altro sta provando potrebbe essere quello di imitare appunto la sua espressione facciale, in modo da comprenderla meglio. Ovviamente anche la comprensione di azioni potrebbe essere facilitata dal fatto di avere dei neuroni che si attivano sia quando io sto eseguendo una determinata azione che quando vedo la stessa azione eseguita da un altro. Quindi questo dovrebbe creare una specie di matching, quindi un accoppiamento tra ciò che faccio e ciò che vedo. Daniele, da quello che poi mi hai detto nella fuori onda, tu sei stato collaboratore del professor Fadiga, che è a sua volta uno dei collaboratori di Rizzolatte, quindi fa parte di quel gruppo che 20 anni fa scoprì i neuroni specchio. E mi hai anche detto che con lui, con il suo gruppo, ti sei occupato fondamentalmente di neuroni canonici, non neuroni specchio, ma che hai approfondito i neuroni specchio in questo paper. Possiamo dire effettivamente che i neuroni specchio altro non sono che quel meccanismo che ha permesso alla nostra specie di evolversi? Sì, sì, questo è esattamente vero, perché infatti la scoperta dei neuroni mirror è annoverata tra una delle più importanti scoperte degli ultimi decenni. Si può dire che sono stati importanti, per esempio, per la nascita del linguaggio. Probabilmente all'inizio la maggior parte della comunicazione avveniva a livello gestuale. Qualcuno ha proposto che appunto questi neuroni siano stati un tramite tra la nascita, cioè siano stati il mezzo tramite cui si è formato il linguaggio. In particolare si sarebbe avuto un accoppiamento tra movimenti della mano e movimenti della bocca, per cui si sarebbe creato alla fine un linguaggio separato che coinvolge soltanto appunto la lingua, quindi il linguaggio parlato. E allora Daniele, di questo e di molto altro ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. A questo punto ci fermiamo un attimo, prendiamo un po' di respiro, ascoltiamo un piccolo pezzo musicale e poi di nuovo dentro Caccia al Fotone. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Your ticket to the moon. I thought you never used public transport. Our small town grows with every single said I got my own lunar module. Our small town grows with every single day I come this Lunar Module è il secondo pezzo degli Effervescent che abbiamo scelto all'interno di questa 183esima puntata di Caccia Fotone, e quindi cari ascoltatori vi do di nuovo il benvenuti all'interno di questa trasmissione in cui ci stiamo occupando di empatia. Lo stiamo facendo col dottor Daniele Marzoli, docente a contratto presso l'Università di Chieti. Perché ci stiamo occupando di empatia? Perché il dottor Marzoli è primo autore di un paper pubblicato giusto 2 giorni fa su Plus One, intitolato The Relation Between Self-Reported Empathy and Motor Identification with Imagined Agents, all'interno del quale si prova a studiare l'empatia non con un approccio neuroscientifico, ma con un approccio meramente psicologico. E allora a questo punto la prima domanda, Daniele, che ti farò in questa seconda parte della trasmissione è questa: che cosa vuol dire aver studiato l'empatia solo dal punto di vista psicologico? Che differenza c'è con i vecchi lavori fatti in questo campo? Sì, diciamo che noi abbiamo utilizzato una metodologia, diciamo, un metodo comportamentale, a differenza di vari studi che studiano i neuroni mirror attraverso tecniche di neuroimmagine, come per esempio la risonanza magnetica. Per esempio, molti di questi studi hanno dimostrato che suggeriscono almeno che le persone più empatiche esibiscono una maggiore attivazione del sistema mirror in una varietà di compiti, per esempio quando si osservano delle facce emotive, che esprimono delle emozioni, quando si vedono delle azioni eseguite da un'altra persona. Quindi c'è una maggiore attivazione del sistema mirror nelle persone più empatiche, ok? Però per quanto riguarda gli studi comportamentali, ce ne sono pochi. Per esempio, è stato dimostrato che le persone più empatiche tendono ad imitare di più le persone con cui interagiscono. Per esempio, se la persona che guardo si gratta la faccia, sarà più probabile che io stesso mi gratto la faccia se sono una persona empatica, piuttosto che se sono una persona poco empatica. Ce ne sono pochi, sono stati eseguiti appunto per quanto riguarda il comportamento, e molti hanno utilizzato tecniche di neuroimmagini come appunto la risonanza. Il nostro scopo è stato quindi quello di vedere se effettivamente questa relazione tra neuroni mirror e empatia potrebbe avere delle conseguenze sul piano comportamentale. Quindi, detta in parole povere, non avete visto se si attiva o non si attiva una parte particolare del cervello, ma avete visto se il soggetto reagisce in maniera empatica a un determinato stimolo. Questo è il concetto di base. Esatto, noi sappiamo che le aree che sembrano costituire il sistema mirror si attivano sia quando si vede una persona, sia quando si immagina una persona che segue un'azione, sia quando si immagina di eseguire quella stessa azione in prima persona, e quindi ci siamo chiesti se ci potessero essere delle differenze tra la capacità di immedesimarsi a livello motorio con una persona immaginata e l'empatia riportata dal soggetto in alcuni questionari. Allora Daniele, entriamo a balzi da gigante all'interno del tuo paper e cerchiamo di vedere come è stato costruito e soprattutto come è stato fatto questo esperimento. Prima di tutto mi devi spiegare due termini che sono riportati all'interno di questo paper, che sono fondamentali per comprendere il modo con cui avete fatto questa analisi. Che cosa vuol dire BIS e che cosa vuol dire IRI? Allora, l'IRI sarebbe l'Interpersonal Reactivity Index. Ok, ed è uno dei questionari più utilizzati per misurare l'empatia, o almeno l'empatia autoriferita dai soggetti, quindi quanto un soggetto si sente empatico, almeno dichiara di essere empatico. La stessa cosa per la BES, che sarebbe la Balanced Emotional Empathy Scale. Anche in questo caso si tratta di un questionario per la misurazione dell'empatia. La differenza tra i due questionari è che il primo è composto da più sottoscale, di cui due che misurano l'empatia cognitiva e due l'empatia emotiva. Il secondo, la BES, misura soltanto l'empatia emotiva, a differenza della BES che misura tutte e due le componenti. Senti, quanti soggetti sono stati coinvolti nello studio e soprattutto che cosa gli avete fatto fare? Ok, allora appunto, come dicevo prima, la nostra ipotesi è che, era che le persone più empatiche si sarebbero immedesimate di più a livello motorio con una terza persona, quindi con una persona immaginata. La nostra ipotesi era che se si chiede a una persona di eseguire un'azione, a un individuo di eseguire un'azione, più l'individuo si immedesima con la persona immaginata, più ci sarà una tendenza ad immaginare l'azione eseguita con la propria mano dominante. Per prima cosa si chiedeva al soggetto se voleva partecipare ad una breve ricerca. Ai soggetti che accettavano si chiedeva poi successivamente di sedersi, di mettersi in una posizione comoda e di poggiare le mani sulle ginocchia senza quindi incrociare né le braccia né le gambe. Dopodiché si chiedeva al soggetto di chiudere gli occhi e gli si chiedeva di immaginare davanti a sé una persona di sesso o maschile o femminile vista di spalle. Dopodiché si chiedeva al soggetto se riusciva a visualizzare la sagoma. Una volta che il soggetto rispondeva affermativamente, gli si diceva: adesso immagina che la persona che stai vedendo sta eseguendo un'azione che poteva essere martellare o pettinarsi oppure cose del genere. Dopodiché si chiedeva di nuovo al soggetto se riusciva a visualizzare in maniera sufficientemente buona l'immagine, quindi l'azione eseguita dalla persona immaginata. Quando il soggetto rispondeva affermativamente, gli si chiedeva di aprire gli occhi e di dire con quale mano il soggetto visualizzato aveva eseguito l'azione, quindi se aveva visto fare un'azione con la mano destra o se aveva visto fare un'azione con la mano sinistra. Fatto questa prima parte dell'esperimento, si chiedeva ai soggetti di compilare alcuni test. Il primo riguardava la preferenza manuale del soggetto, quindi era un test in cui gli si chiedeva di indicare la sua preferenza nell'utilizzo della mano destra oppure sinistra nell'esecuzione di vari compiti. E poi si chiedeva anche di compilare i questionari di cui abbiamo parlato prima, quindi l'IRI e la BES, che misurano quanto il soggetto dichiara di essere più o meno empatico, quindi sono una misura dell'empatia del soggetto, almeno della presunta empatia del soggetto. Daniele, a quanto vedo dal vostro paper, poi a pagina 2, i soggetti coinvolti sono stati 376 e voi specificate che ne avete coinvolti 188 donne e 188 uomini. Quali sono stati i risultati a cui siete arrivati e soprattutto i risultati a cui siete arrivati concordano con i lavori precedenti sui gradi di empatia, tra virgolette? Allora, il risultato è stato che i soggetti che hanno avuto punteggi di empatia più alti nel questionario della BES hanno mostrato una maggiore tendenza ad immaginare l'azione eseguita con la propria mano dominante. Quindi i soggetti più empatici in pratica tendono ad immedesimarsi di più con l'attore immaginato. In realtà, poi, andando ad analizzare più in dettaglio i risultati dati, è risultato che questo effetto è dovuto soltanto alle femmine. Quindi le femmine che immaginano l'azione con la propria mano dominante sono risultate più empatiche rispetto a tutti gli altri gruppi, quindi rispetto alle femmine che immaginavano l'azione con la mano non dominante e rispetto ai maschi che immaginavano l'azione sia con la mano dominante che con la mano non dominante. E questo sembra in linea con gli studi precedenti che suggeriscono che sono soprattutto le femmine ad utilizzare le rappresentazioni motorie in una varietà di compiti. Quindi fammi capire meglio, i test servono fondamentalmente per autoassegnarsi un certo grado di empatia e l'esperimento che gli fate fare è per verificare se quel determinato grado di empatia che uno si autoassegna è vero oppure falso, giusto? Quello che abbiamo fatto noi era prendere i soggetti che avevano immaginato, quindi separare i soggetti intanto per i maschi e femmine. Dopodiché separavamo i soggetti che hanno immaginato, quindi sia i maschi che le femmine, che hanno immaginato l'azione con la mano dominante, li abbiamo separati da quelli che hanno immaginato l'azione con la mano non dominante. In questo caso si tratta di stabilire, quindi questo è il nostro criterio per stabilire chi si era immedesimato di più e chi si era immedesimato di meno. Quindi chi si era immedesimato di più era chi aveva immaginato l'azione con la propria mano dominante, chi si era immedesimato di meno era chi aveva immaginato l'azione con la mano non dominante. E di questi quattro gruppi sono stati analizzati i punteggi ai test di empatia. Okay? Mentre per il primo test, l'IRI, non ci sono state differenze significative, per l'altro test, quello che appunto misurava specificatamente l'empatia emotiva, ci sono state delle differenze, quindi le femmine che hanno immaginato l'azione con la propria mano dominante sono risultate significativamente più empatiche rispetto a tutti gli altri gruppi. Questo appunto è in linea con gli studi precedenti che dicono che uno, che le femmine sono in generale più empatiche degli uomini, due, che le femmine in vari compiti attivano il sistema motorio più dei maschi, per esempio quando osservano un'azione o quando devono semplicemente fare dei compiti appunto di visualizzazione, appunto di scene, quindi se devono dire prendere la prospettiva spaziale di un'altra persona. Ok, in questo caso per le donne c'è una maggiore attivazione delle aree appunto motorie e delle aree premotorie, appunto quelle che sono implicate nel sistema mirror. Allora, con questa tua risposta si conclude un pochino la parte centrale di Cacciafotone. Abbiamo un pochino cercato di spiegare che cosa sono i neuroni specchio, che cos'è l'empatia, come è stato sviluppato questo esperimento riportato nel paper pubblicato su PLOS. A questo punto musica, poi al nostro ritorno l'ultima domanda di Cacciafotone, cioè quella che abbiamo definito la domanda zainetto. A dopo. Grande ciao. Thank you. Mother's hand is dead, while the body jerks around like a rooster fed on spinning spread. E siamo nell'ultima parte di Calcio Fotone, nell'ultimo minuto di Calcio Fotone, all'interno del quale abbiamo parlato di empatia, abbiamo parlato di neuroni specchio, l'abbiamo fatto col dottor Daniele Marzoli, docente a contratto presso l'Università di Chieti. Ma poiché siamo arrivati all'ultima parte di Calcio Fotone, adesso arriva la domanda classica, la domanda zainetto. Daniele, che cosa conserverai, che cosa metterai nel tuo zainetto da ricercatore per portarti dietro nelle prossime ricerche? Insomma, in che modo si è arricchito il tuo bagaglio scientifico con questa ricerca? Sinceramente questa è la domanda più difficile. Per prima cosa, la cosa più importante per un ricercatore, soprattutto per un ricercatore alle prime armi come me, è la pubblicazione di un articolo. Inoltre, questo è stato uno studio abbastanza laborioso, quindi come visto sono stati testati tanti soggetti, e quindi già il fatto che abbia dato dei risultati positivi è qualcosa che mi fa molto piacere. Ci fa piacere a me e anche ai miei collaboratori che appunto abbiamo utilizzato una nuova metodologia, quindi un nuovo metodo che anche qualcuno ha definito un nuovo modo appunto di studiare appunto i neuroni mirror, un approccio appunto comportamentale e non basato soltanto appunto sulle neuroimmagini e sul vedere quale area si attiva in un compito piuttosto che in un altro. Daniele, ti ringrazio per la pazienza con cui hai risposto alle nostre domande. L'appuntamento è per tutti voi alla settimana prossima con la puntata 184 e l'augurio è il solito: buona scienza a tutti. Grazie Daniele. Grazie a te. E con chi stai parlando? Dici a me?